www.radio3pod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli le reali della notte tardano ad aprirsi, Kappa e Drago stanno cercando di capire se Amogele e Gesù Cristo fossero coevi. Ma dai, ma Kappa, ma come puoi pretendere che io lo sappia? Dai, dai, Drago, un piccolo sforzo di memoria. Dai, faccio. I nomi dei 12 apostoli. Sì, vabbè, dai, non me li ricordo tutti e 12. Non mi ricordo mai nemmeno i nomi dei 7 nani. Comunque, Amogele da Gaborone tra i 12 apostoli non c'era. Dai, Drago, gli apostoli. Ma dai, mi ricordo i più importanti. Giuda Iscariota, Pietro. Bravo, poi? Che ne so, non lo so, non mi ricordo. Dai, Drago, forza! Torna ai tempi del catechismo. Mimmi, vuoi sapere i nomi degli apostoli? Ce li hanno insegnati oggi al catechismo. No. Ma perché? Perché sono atea. Mimmi, al catechismo ci hanno detto che gli atei vanno all'inferno. L'inferno non esiste. E il paradiso? Nemmeno. E gli apostoli? Mai esistiti gli apostoli. E acchiappa il gallo che stanotte c'è il sabba. Meme, perché? Perché? No, no, no, forse è meglio lasciarli stare i tuoi ricordi d'infanzia lì dove sono, perché sono pericolosi, sì. Quindi, Drago, tu hai 40 anni e mi dici che non conosci i nomi dei 12 apostoli. Invece, perché tu hai 38, se non avessi la stampata di Wikipedia, me li sapresti dire a memoria, certo, così, snocciolandomi. Certo, certo, i 12 apostoli erano... Simone detto Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Tommaso, Matteo, Giacomo minore, Giuda, Taddeo, Simone e Giuda Iscariota. Sembra la formazione del Brasile, con tutti i nomi doppi e soprannomi. Invece di Giulio Cesare c'è, cioè, Giuda Taddeo, Giuda Iscariota. Ma dai, Giuda Iscariota. Invece è la formazione dei 12 apostoli, così come la riportano tutti e 4 i Vangeli. Però esiste da sempre il dubbio che ci fosse un 13° apostolo, come Pete Best, il 5° Beatles. Pete Best fu il batterista di gruppo rock di Beatles da 1960 a 1962, quando il gruppo suonava primariamente in Germania, ad Hamburg. Povero Pete Best, che fu ristrutturato da Beatles, cioè licenziato, senza motivi, e sostituito con più pittoresco batterista Ringo Starr, prima che Beatles diventassero famosi. In tutta sua vita Pete Best non ha fatto altro che ricordare con nostalgia e rimpianto sua cioffinezza, anche perché Beatles tutti ricchi e lui senza soldi ubriacone. Purtroppo Pete Best non si ritirò mai di scena musicale e continuò a fare dischi orrendi senza che nessuno li comprava, così che sua depressione cresce ogni giorno, e voglio vedere se fosse successa la stessa cosa anche a voi, insensibili bastardi. Va bene, K, l'ho capito il concetto. Meno male. Sì, il 13° apostolo è un'ipotesi suggestiva. Molto, no? Suggestiva. Come appunto il 5° Beatles, il 3° Cocchi e Renato, l'8° Nano, la 10ª settimana. Ma cos'è la 10ª settimana? Ma cosa dici? Sono i 3 giorni e mezzo che Kim Basinger ha trascorso sempre con Mickey Rourke, dopo le più note 9 settimane e mezzo di schifezze sessuali, ma di cui non esiste la documentazione. Quindi, no? la decima mezza settimana, non sì, è anche la decima. Sì. Ma tu di matematica non capisci niente, Drago. Lascia stare Kim Basinger. Lascia stare, ormai potrebbe essere tua suocera Kim Basinger. Concentriamoci sugli apostoli. Dai, il Nuovo Testamento. Hannah A, Hannah Arendt. Gli apostoli. Dai, Drago, siamo sulla buona strada, lo vedi anche tu. Tutti i siti in lingua zuana dove troviamo la parola Amoghele lo associano a Gesù Creste. E da qui si può dedurre chiaramente che Amoghele è il tredicesimo apostolo. Amoghele. Amoghele. Amoghele. Amoghele! Amoghele! Amoghele è il tredicesimo apostolo. Amoghele! Amoghele! La fabbrica di polli. Allora, Tarek, vieni qua vicino che ti devo parlare. Allora, il tuo amichetto Joao, forse non lo sai ancora, ma tra un po' lo ammazzano, eh? Eh sì, manca poco, eh? Massimo 5 giorni ed è finita. Quindi tu devi smettere di essere affezionato a lui. Joao, amico. Lo so che è un tuo amico, è per questo che ti consiglio di considerarlo morto. E devi considerarlo morto da ora, da subito. Come se fosse un morto che cammina, uno zombie. Zombie? Zombie, ecco. Perché nel mondo funziona così. E se tu cominci a fare sentimentale, poi te li trovi come gli uomini, che buttano via tutta la vita dietro a baggianate come amore, amicizia, sentimenti, mentendo loro stessi e perdendo su tutti i fronti. Essere polli, Tarek, è difficile, perché tutti pensano dei polli che sono stupidi. Sta gente! È certo che ci considerano stupidi. Alla fine fanno bene, se vedono uno come te, fanno presto a pensare che i polli siano tutti così, Ciao, amico di Passasciut. Sì, come le merende di Pacciani e Vanni. Vabbè, Tarek, comunque con te è inutile sprecare il fiato. Ti capisco, ma sappi che essere polli è la cosa più difficile, Anche se alla fine forse è la più ragionevole, o la meno vergognosa. Se gli uomini la smettessero con le bugie sull'amore, e si accorgessero che quel che conta nella vita è l'attività episcopale. Episcopale? Episcopale, bravo. Allora segui. Forse alla fine, ma forse, smetterebbero di far danni al pianeta. Episcopale? Gli uomini fanno tutto episcopale. I soldi, la guerra, persino le civiltà sono frutto della voglia episcopale di uomini e donne. Mi segui, Tarek? Episcopale? Ecco. Gli uomini, ma tutti gli uomini, vogliono fare chicchirichì. E tutte le donne vogliono fare cocodè. Alla fine è tutto lì, Però è bello far fare cocodè alle galline, Tarek? Cocodè? Sì, ma non a te, alle galline! Tu devi fare chicchirichì, no? Scappare, scappare, cocodè, scappare, cocodè! Ma va, via! Di tredicesimo apostolo si parla apertamente per quanto riguarda Paolo di Tarso, un artigiano che lavorava le tende a Gerusalemme e che da ebreo osservante trovava il culto di Cristo scandaloso ed eretico. Quindi, per tutta la vita, denunciò e perseguitò i paleocristiani della Palestina. Ma un giorno, andando a Damasco, venne ghermito dal Signore e si convertì. Da quel momento si spese per la nascente Chiesa cristiana. Gesù Creste, Gesù Creste. Tanto da essere considerato il tredicesimo apostolo. E ancora oggi è una delle figure centrali del cristianesimo. Pensiamo infatti all'Istituto Bancario San Paolo di Torino, che appunto a lui è dedicato. Quindi il tredicesimo apostolo è San Paolo, quello di via Damasco? No, ma che via Damasco? Quello illuminato sulla via per Damasco. Ah, è Amoghele, quindi? Ma di dove è Amoghele? Ma chi è? Amoghele dovrà vedersela con San Paolo per conquistare l'ambitissimo titolo de... Il tredicesimo apostolo. Chi diventerà il tredicesimo apostolo? Paolo di Tarso, spera, e la sorpresa dell'ultima ora, Amoghele da Gaborone, spera, vincerà la tradizione o l'innovazione, Paolo contro Amoghele, la sfida finale. La fabbrica di polli produce sfida, non chiude, sfida, non chiude. Quasi mai.